nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 febbraio, il sole in regione sorto alle 7.08 e tramonterà alle 17.36. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Le viti resistenti a malattie e basse temperature, perfezionate da uno studio dell'Università di Udine, iniziano a collezionare successi. Ora le vogliono anche in Canada e l'interesse per questi prodotti made in Friuli sta dilagando. È il tema del servizio di apertura seguito dalla difesa, non d'ufficio, dell'agricoltura biologica ultimamente al centro di una serie di attacchi non sempre disinteressati. Continua poi l'avventura, anche psicologica, dell'orto sociale di Stefano Montello, mentre per la rubrica delle piante oggi il focus è sulla farfara, pianta conosciuta e apprezzata già dagli antichi romani. A seguire una serie di avvertenze sui rischi emergenti dell'alimentazione, che seguendo le mode qualche volta trascura la sicurezza, mentre nulla di più sicuro e sperimentato è la supetta de galina, ricetta che prevede una pollastra veramente ruspante. Andamento dei mercati, previsione del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Vita nei Campi da anni vi parla delle viti resistenti, resistenti alle malattie e anche alle temperature. Abbiamo seguito il progetto dell'Università di Udine da quando è proprio iniziato. Ora c'è già il vino, ora ci sono le sperimentazioni che stanno andando avanti. Vogliamo fare il punto con il professore Enrico Peterlunger, uno che questo progetto l'ha seguito fin dall'inizio. Perché? Perché sta partendo per il Canada a parlare, e non solo parlare, probabilmente anche a presentare e vendere, anche se non è lui che le vende, le viti resistenti in Canada. Professore, qual è lo stato dell'arte di queste viti nate all'Università di Udine? Queste viti adesso sono in produzione anche in Friuli e alcune aziende hanno già cominciato a produrre dei vini commerciali fatti con queste varietà che richiedono meno trattamenti. Dunque lo stato di salute di questo progetto è buono, stiamo andando avanti. Ecco, come mai i canadesi si sono rivolti a voi? A me è arrivata alcuni mesi fa una email dagli organizzatori della più grande fiera agricola del Canada, che si svolge presso le cascate del Niagara in Ontario, e loro mi hanno detto: abbiamo saputo del vostro progetto, l'Università di Udine, avete fatto queste varietà resistenti, professore, venga a parlarcene. E io sarò lì il 20 e 21 di febbraio e nell'ambito di questa grande fiera agricola ci sono dei convegni di viticoltura nei quali presenterò queste varietà. Interesse solo accademico oppure ci saranno anche i viticoltori? Ci saranno senz'altro anche dei viticoltori che ascoltano, e in realtà il Canada per noi non è proprio una terra sconosciuta, nel senso che con la Brock University, che è sempre nella zona delle Cascate del Niagara, abbiamo già come Università di Udine dei rapporti di collaborazione, abbiamo mandato degli studenti, ricevuto degli studenti che fanno tirocini, che fanno tesi, per cui è una collaborazione che è data da diverso tempo. E venerdì 22 faremo una degustazione di queste varietà resistenti proprio alla Brock University, e la cosa interessante è che queste collaborazioni ormai 20 anni fa sono state, diciamo, promosse, suggerite e appoggiate da Donald Giraldo, che era il fondatore della cantina Inniskilling, che produce il famoso ice wine del Canada, che è un friulano nato in Canada da genitori di Fagagna, per cui è lui che ancora continua ad appoggiare queste collaborazioni e presso i viticoltori sta dicendo: guardate, queste varietà meritano se non altro di essere provate. L'interesse dei viticoltori in quella zona è vivace e elevato. Tutto all'interno di un grande pensamento di sostenibilità. Esattamente, la viticoltura, no, appunto, non possiamo nasconderci che è una delle colture che richiedono maggiormente l'intervento fitosanitario, di trattamenti che hanno un impatto sull'ambiente, sui consumatori, magari meno, però insomma sull'ambiente e anche sugli operatori del settore è rilevante. Allora bisogna che noi facciamo dei passi in quella direzione. Un'obiezione che viene fatta spesso è: ma noi abbiamo le nostre varietà antiche, queste che meritano di essere mantenute, non si può cambiare. C'è una certa resistenza del settore nei confronti di questo mutamento, però bisogna anche dire che il mutamento, ogni tradizione è una innovazione che ha avuto successo, per cui non si può dire resteremo per l'eternità legati alle nostre varietà. Le nostre varietà vanno bene, non si vogliono spiantare in senso generale, però se ci sono delle novità che il miglioramento genetico offre, e per migliorare la sostenibilità mantenendo elevata la qualità dei nostri prodotti, è una direzione da percorrere, secondo me. La scorsa puntata Cristina Micheloni aveva iniziato una difesa, non d'ufficio ovviamente, dei metodi dell'agricoltura biologica, che è sempre più spesso oggetto di critiche non sempre proprio tanto argomentate. Ci aveva parlato delle variazioni climatiche legate appunto alle pratiche agricole. Oggi continua. Torniamo a parlare di humus, di sostanza organica e suoli. Quindi l'agricoltura biologica accumula humus nei suoli, questo comporta una capacità anche del suolo di reagire meglio al cambiamento climatico, sia perché utilizza meglio l'acqua, sia quando è in eccesso, sia quando ce n'è poca, perché contribuisce alla diversità microbiologica del terreno e quindi a rendere le piante più resistenti anche agli attacchi di patogeni, e questo significa dare continuità, stabilità alle produzioni e anche cibo di valore nutrizionale maggiore. Per non parlare degli allevamenti, quelli biologici sono tutti allevamenti che estensivi, parlo dei poligastrici, foraggi in diverse modalità e non granelle come la soia, il mais, l'orzo, se non in piccolissima quantità. Ora, la zootecnia intensiva è la principale causa del cambiamento climatico per quanto riguarda l'agricoltura, e considerate che nella zootecnia intensiva non c'è solo l'utilizzo delle granelle, ma anche il fatto che queste granelle spesso arrivano da altri continenti, quindi con tutte le emissioni legate ai trasporti, eccetera. Quindi la zootecnia bio è un altro sistema che, anche per quanto riguarda il clima, ha un impatto positivo assolutamente importante. Quando invece leggiamo appunto le accuse che vengono mosse anche da alcune pubblicazioni, ci si concentra sul fatto che l'agricoltura biologica, siccome è meno produttiva, ha bisogno di più terreno per sfamare il mondo. Tre cose al volo. Uno, il calo della fertilità dei suoli gestiti in convenzionale è un problema documentatissimo, e quindi meno fertilità, meno carbonio nel suolo, più emissioni e meno produzione a sua volta. Secondo, spreco. L'enormità dello spreco del cibo è ampiamente documentato. Insostenibilità delle produzioni zootecniche, ne abbiamo appena parlato, sono quelle che deforestano l'Amazzonia. Ed infine le emissioni legate al trasporto globale del cibo. Quello che il packaging e il trasporto sono una di quelle voci che pesano ancora di più. Perdonate il barboso dettaglio, ma continueremo a essere noiosi nelle prossime trasmissioni. Continua l'analisi di Stefano Montello sull'orto sociale, parlandoci oggi delle virtù che bisogna avere per intraprendere queste iniziative. Come puoi provare a fare agricoltura sociale se non hai un pensiero complesso? Cioè, fare il contadino è una scelta non convenzionale che ne presuppone decine di altre, anche dolorose. Se resisti, sei un fisico temprato, la mascella volitiva, il cervello bacato, improntitudine, autostima in eccesso e qualche altra forma di devianza non invasiva, puoi provare a fare il contadino sociale. A parte che autostima è una parola sciocca e vuota, inventata non so da chi per fare non so che cosa, vendere libri, presumo, o vendere sedute psicanalitiche, o improbabili corsi sulla conoscenza di sé. Autostimarsi dovrebbe sostanzialmente voler dire volersi bene, avere un buon rapporto con se stessi e avere un buon daimon, un buon demone, che ci faccia da guida nell'avventuroso declivio della vita. E allora, perché non usare la parola consapevolezza? Le parole ci vengono sempre in aiuto, anche se bisogna stare molto vigili su chi e come le usa. Consapevolezza è sapere qualcosa insieme agli altri. La particella con e il verbo sapere ci spiegano che per arrivare al profondo di noi, per avere piena cognizione di ciò che diciamo, facciamo e siamo, abbiamo bisogno della mediazione degli altri. In primo luogo la consapevolezza della nostra schiavitù, che è una forma di schiavitù molto moderna, contemporanea, subdola, insinuante ma molto efficace. Siamo schiavi della nostra follia, dei condizionamenti, dei veti incrociati, dei passaggi obbligati, blanditi e leccati all'occorrenza e all'occorrenza inscatolati o regimentati, ma schiavi degli acquisti intelligenti, delle partenze intelligenti, dei programmi intelligenti, delle trovate intelligenti, dei lavori intelligenti e delle pubblicità intelligenti. Tutto ciò che ci vogliono far credere intelligente è in realtà imbecille. Non esiste un'intelligenza orizzontale, valida per tutti, di massa. L'intelligenza esplode a macchia di leopardo e solo poi può essere coinvolgente. L'imbecillità no, lei è di massa, si espande a valanga come una nube piroclastica. No, noi siamo schiavi, ben pasciuti e ben nutriti. E il primo gradino di consapevolezza è sapere proprio questo. E condividerlo. Eppure continuiamo a usare maldestramente la parola autostima, che invece ci dà l'idea di un'individualità solitaria e ripiegata su se stessa. Quasi una scalata solitaria del nostro abisso. Fare i corsi di autostima vuol dire restare da soli a meravigliarci dei nostri progressi nella conoscenza della nostra solitudine. Bello e inutile. Vi aspettiamo in fattoria con Zanga, Vanga e Rastrello. La farfara, piantina comune con bei fiorellini gialli, racchiude una serie di proprietà che l'avevano resa famosa già ai tempi dei Romani, come ci spiega Antonino Danelutto. Le rigide temperature invernali ci costringono a difenderci soprattutto dalle fastidiose malattie che interessano le vie respiratorie. Una delle piante che in questi casi viene spesso impiegata come rimedio è la farfara, nota anche come tossillaggine, una erbacea perenne comune in tutto il territorio regionale che fiorisce già a partire da febbraio. Il suo nome scientifico è Tussilago farfara, quello friulano l'eschiat. Dal suo rizoma sotterraneo strisciante e fragile si elevano per 10-20 cm piccoli fusti biancastri, carnosi, lanosi, ricoperti da minute squame di colore verde rossastro. Ogni fusticino porta un unico capolino giallo del diametro di 2-3 cm, formato da fiori centrali tubulosi maschili e fiori ligulati periferici femminili che si chiudono di notte. Le foglie nascono direttamente dal rizoma, sono vellutate e nella pagina inferiore sono bianco-cotonose. Si formano quando i fiori cominciano ad appassire, tanto che gli antichi romani definivano la farfara filius ante patrem, cioè il figlio prima del padre. La pianta preferisce terreni argillosi umidi, macerete, incolti, bordi di strade, sponde di corsi d'acqua. Non è esigente e spesso la si trova anche su cumuli di terra o di ghiaia di recente formazione. In cucina c'è chi suggerisce di utilizzare le foglie fresche in insalate, forse con risultati non proprio incoraggianti. Invece le sue proprietà terapeutiche erano già note anticamente. Si sa che nel primo secolo d.C. il medico greco Dioscoride riteneva l'intera pianta utile contro la tosse e l'asma. Plinio, invece, consigliava l'uso delle sole foglie nella cura della tosse. Approfonditi studi sui principi attivi della farfara hanno evidenziato la presenza nella pianta non solo di mucillagini, tannini e flavonoidi, ma anche di quantità minime di alcaloidi pirolizidinici, tossici per il fegato. Tuttavia, il suo impiego nelle infiammazioni delle vie aeree con tosse e raucedine non comporta rischi di intossicazione, sia perché nell'infuso passerebbe una quantità insignificante di tali alcaloidi, sia per la breve durata della cura. L'antica medicina popolare friulana riteneva la farfara efficace nella disintossicazione da tabagismo. Non solo, credendo di scongiurare la tisi, si fumavano le foglie raccolte a maggio, sovrapposte una sull'altra per qualche giorno per farle fermentare e poi essiccate all'ombra. Inoltre era consuetudine trattare le piaghe con foglie fresche spalmate di burro. Per la rubrica Qualità e Sicurezza sulle nostre tavole è oggi Claudia Fontanini, che è la responsabile dell'Ufficio Certificazione di Qualità del Consorzio Agrario, ci parla dei rischi emergenti in fattore alimentare. I cambiamenti nelle abitudini alimentari, le scoperte scientifiche, le innovazioni tecnologiche, come anche le attività fraudolente, ci possono esporre a nuovi rischi attraverso il consumo di cibo o bevande. Uno dei compiti dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha sede a Parma, è proprio intervenire per individuare e definire i rischi emergenti, nel tentativo di anticipare future crisi della sicurezza alimentare. Negli ultimi anni l'Autorità Europea ha segnalato, per esempio, quello relativo all'acido ossalico nei frullati verdi. Si tratta di bevande a base di verdura e frutta, prodotti di tendenza, sempre più diffusi. Il loro consumo potrebbe però, in alcuni casi, avere effetti negativi sulla salute. Alcune verdure, come per esempio gli spinaci o il cavolo, hanno un alto contenuto di questa particolare sostanza, l'acido ossalico, che nella tradizionale cottura diminuisce sensibilmente. Con l'attuale consumo crudo nei frullati verdi, l'esposizione quindi aumenta e questo potrebbe favorire la formazione di calcoli renali. L'elevato apporto di acido ossalico nella dieta è rischioso anche per la riduzione della disponibilità di ioni calcio e ferro presenti nel cibo, con conseguente demineralizzazione delle ossa o carenza di ferro. C'è poi il rischio di un possibile aumento della contaminazione microbica se i frullati verdi non vengono conservati a temperature di refrigerazione. Un altro esempio di rischio associato a nuove tendenze è il fieno, impiegato come alimento o additivo alimentare. L'utilizzo è in aumento, per esempio in prodotti quali cioccolato, senape, formaggio e liquori. Non essendo definita e standardizzata la composizione del fieno, possono essere identificati potenziali rischi per la salute umana legati alla presenza di piante o ingredienti vegetali tossici, ma anche di microrganismi o parassiti. Non dimentichiamoci mai, come risulta da questi esempi di rischi emergenti, ma basterebbe pensare ai funghi velenosi, che non sempre ciò che è naturale è innocuo e salutare. La supeta de galina è una di quelle ricette che ci portano a fare un passo indietro nelle tradizioni e usi alimentari. La proposta è del nostro Roberto Zottar. Nelle campagne il pollame costituiva il piatto di carne più consumato. Non vi era festa o arrivo di un ospite che non venisse onorato col sacrificio di un pollo. Niente andava sprecato. La testa non si gettava, si puliva bene e si cucinava. Il cervello era destinato al bambino più piccolo. Le zampe, sbollentate per eliminare la pelle esterna squamosa, si cucinavano nel brodo. Si scartavano solo due piccoli pezzi dell'interiora non commestibili, le altre venivano aperte, raschiate, pulite bene e cucinate anch'esse nel brodo. Il sangue si raccoglieva in una scodella per cuocerlo, poi insieme alle rigaglie, oppure da solo con abbondante cipolla, sale, pepe e cannella. Il grasso si utilizzava per insaporire i contorni o altri piatti. Gustosi i piatti a base di gallina, presenti nei ricettari dell'area del Carso, con ricette come gallina arrosta o ripiena di fegatini d'interiore. Il brodo con i tagliolini all'uovo e la gallina arrostita venivano spesso offerti alla festa che seguiva il battesimo o al pranzo della cresima al ritorno dalla chiesa. Erano sempre parte delle pietanze del pranzo di nozze che si teneva generalmente nella casa della sposa. Caratteristica di queste ricette è che la gallina veniva sempre prima bollita per avere il brodo, poi cotta nuovamente arrosto in teccia, cioè in tegame o al forno. Certamente parliamo di galline di cortile che appunto necessitavano di una cottura prolungata. Al brodo di gallino di tacchino si poteva unire carne di manzo per fare il brodo taglià, brodo fatto con carni miste, ed era un lusso per le feste e per le occasioni familiari importanti. Le ricette più caratteristiche sono forse il risotto scocosio, cioè il risotto con la gallina, come viene chiamato in dialetto sloveno, a base di gallina arrosta e maggiorana, e la supeta o spezzatino di gallina, altro piatto tipico dei giorni di festa. Per realizzarla prendete una gallina, possibilmente nostrana, e tagliatela a quarti. Versate un veglio d'olio in una pentola capace e fate rosolare a fuoco vivo i pezzi di gallina, bagnate con vino bianco secco, aggiungete 3 cipolle tritate e soffritte, sale, maggiorana fresca della conserva o concentrato di pomodoro. Coprite con brodo vegetale e lasciate cuocere a fuoco moderato e recipiente semiscoperto per circa 3 ore. Togliete la gallina dal sugo e disossatela, riducendo la polpa a pezzi grossolani. Aggiungete una manciata di pepe e una patata lessa, schiacciata, al fondo di cottura in modo che s'addensi. La supeta si serve con la carne della gallina su fette di pane abbrustolito o di polenta arrostita e si usa anche per condire i mlinzi di cui abbiamo già parlato o si abbina bene con i fusi istriani, tipica pasta che ricorda i garganelli. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento in discesa venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,80 e 17 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento buonomercantile tra 21,10 e 21,40, l'orzo tra 21,10 e 21,60, la soia tra 33,10 e 33,60. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 40 centesimi, mentre la soia è diminuita di 3,40 euro al quintale. Mercato ben intonato nel settore dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,20 e 2,70 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,50 e 2,20. Timidi cenni di movimento anche per i vitei da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 5,60 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 5 euro, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,40 e 1,70. Timidi accenni di ripresa pure nel settore suinicolo, con il valore degli attonzoli di 40 kg franco partenza fissato a 1,93 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,26. Domanda sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,30 e 5,95 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,80 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi viene pagato tra 7,70 e 8,10. Infine, tendenze congiunturali nel comparto degli avi cunicoli, con i poli a terra pagati tra 0,88 e 0,90 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,28 e 1,30, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,30 e 2,34, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUN di Verona tra 2,14 e 2,20, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 12 centesimi e 70 il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccello diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese è iniziato con un'intensa perturbazione che ha portato precipitazioni tra i 150 e i 400 mm sui monti e tra i 50 e i 150 in pianura, con neve a quote oltre 1000 metri. In un paio di giorni sulla pianura e sui monti è caduto l'equivalente di precipitazione di tutto il mese di febbraio. Dal 4 al 9 il tempo ha subito una svolta radicale con correnti da nord-est secche che hanno riportato il sole e, col cielo sereno, anche le gelate notturne in pianura, mentre di giorno le temperature su pianura e costa hanno toccato i 10 gradi. Il giorno 10 il tempo è invece peggiorato per l'approssimarsi di un fronte atlantico. La prima decade è risultata così più calda della norma, aperta e chiusa da due fronti. Tra il 10 e l'11 il fronte atlantico ha determinato precipitazioni moderate, più abbondanti sulle Giulie e neve solo in quota. Singolare l'episodio temporalesco fuori stagione, accaduto in provincia di Trieste nel pomeriggio dell'11, con rovesci di pioggia e neve tonda, una particolare idrometeora tipica del tardo inverno e primavera, sul Carso e a Trieste. Dal 12 a oggi è tornato il bel tempo e le temperature massime hanno toccato anche i 15 gradi in pianura, mentre sui monti lo zero termico è andato oltre 2500 metri, con inversioni notturne nelle valli. Finora quindi abbiamo avuto una netta prevalenza di giornate soleggiate. Tuttavia la perturbazione dei primi giorni del mese ha già assicurato i quantitativi mensili di precipitazioni attesi climaticamente. La temperatura media del mese per ora è superiore alla norma. Il tempo anticiclonico si presenterà anche all'inizio della settimana, ma col maggiore ristagno di umidità nei bassi strati. Avremo infatti sole e caldo relativamente sui monti, alte pianure e zone collinari, mentre su basse pianure e costa prevarranno foschie, nebbie e nubi basse, anche durante il giorno, salvo temporanee schiarite. Martedì e mercoledì il fulcro dell'alta pressione si sposterà verso Levante, favorendo l'ingresso di correnti occidentali ancorché deboli. Avremo quindi nubi dalla costa alle Prealpi, spesso accompagnate da foschie e nebbie e forse anche piovigine. Mentre sulle Alpi il tempo sarà migliore. Lo zero termico, fino ad ora anche a 3.000 metri, tenderà a scendere verso i 2.000. Successivamente sembra che l'anticiclone riprenderà vigore verso l'Europa centrale, inaugurando una fase di correnti nord-orientali più fresche in quota e un minor ristagno di umidità nei bassi strati, almeno fino al prossimo fine settimana, senza però portare precipitazioni. Per ulteriori e più precise informazioni, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. A San Valentin, al Chianti l'odulin, ovvero a San Valentino, la lodola inizia il suo canto, segno della primavera che arriva. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.